Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Elsa Galbato legge Bellamy di Guy de Maupassant, traduzione di Giorgio Caproni. C'era buio nell'appartamentino di Rue de Constantinople, giacché Georges Duroy e Clotilde de Marelle, incontratisi nel portone, erano entrati in fretta e lei gli aveva detto a bruciapelo, senza nemmeno dargli il tempo d'aprir le persiane: «E così sposi Suzanne Walter!» Georges annuì mellifluo e aggiunse: «Non lo sapevi?» Dritta davanti a lui, furibonda, indignata, lei ripeté: «Tu dunque sposi Suzanne Walter? Ma questo è troppo, è troppo! Son 3 mesi che fai un sacco di moine perché non me ne accorga. Lo sanno tutti quanti eccetto me. È stato mio marito a dirmelo!» Duroy prese a ridacchiare, un po' confuso però, e posato il cappello sul caminetto si sedette su una poltrona. Clotilde gli aveva piantato gli occhi in faccia e con voce bassa e irritata disse: «Stavi preparando il colpo da quando hai lasciato tua moglie e garbatamente mi tenevi come amante, come interim, eh? Sei un bel mascalzone, va là!» Lui domandò: «E perché? Mia moglie mi ingannava, l'ho sorpresa, ho ottenuto il divorzio e ne sposo un'altra. Mi par la cosa più semplice del mondo.» Lei mormorò fremente: «Ma sta zitto, canaglia! Credi che non lo sappia che hai rubato a Madeleine metà dell'eredità di Vaudrec? Credi che non lo sappia che sei andato a letto con Suzanne per costringerla a sposarti?» Georges l'afferrò per le spalle e, scotendola con tutte e due le mani, disse: «Lei non la nominare, te lo proibisco!» Clotilde urlò: «Ci sei andato a letto, io lo so!» Georges la lasciò e le mollò in faccia un ceffone tale da mandarla a sbattere per terra contro il muro. Ma Clotilde, sollevandosi sulle mani, si volse ancora verso di lui e gli gridò di nuovo: «Ci sei andato a letto, ci sei!» Lui le si avventò addosso e, tenendosela sotto, la picchiò come avrebbe picchiato un uomo. Lei tacque un tratto e cominciò a gemere sotto le percosse. Non si muoveva più. Aveva nascosto il viso nell'angolo tra il pavimento e la parete ed emetteva gridi lamentosi. Lui smise di batterla e si alzò. Poi fece qualche passo nella stanza per riacquistare la calma e, preso da un'ispirazione, andò in camera, riempì una catinella d'acqua fredda e vi immerse il capo. Poi si lavò le mani e tornò a guardare cosa stesse facendo costei, mentre s'asciugava accuratamente i diti uno per uno. Clotilde non s'era mossa. Era ancora stesa per terra e singhiozzava pian piano. Le domandò: «Durerà molto questo piagnisteo?» Lei non rispose. Allora lui rimase lì ritto in mezzo alla stanza, piuttosto imbarazzato, un tantino vergognoso, di fronte a quel corpo disteso ai suoi piedi. Infine, decisosi a bruciapelo, prese il cappello sul caminetto ed esclamò: «Buonasera! Restituisci la chiave al portinaio quando avrai fatto i tuoi comodi. Non ho tempo da perdere con i tuoi capricci!» Il matrimonio era fissato per il 20 ottobre, dopo la riapertura delle camere. Doveva essere celebrato nella chiesa della Madeleine. Non si cianciava d'altro da un pezzo, anche se non si sapeva al giusto la verità. Correvano le voci più disparate. Si sussurrava d'un ratto, ma non si sapeva nulla di preciso. Stando ai domestici, la signora Walter, che aveva tolto il saluto al futuro genero la sera in cui era stata decisa tale unione, s'era fatta tanta rabbia da avvelenarsi dopo aver fatto accompagnare la figlia in un collegio di suore a mezzanotte. L'avevano raccolta quasi morta. Certamente non si sarebbe rimessa mai più. Pareva una vecchia ormai. I capelli le erano diventati grigi e s'era fatta bigotta. Si comunicava tutte le domeniche. Ai primi di settembre la Vie Française annunziò che il barone Duroy de Cantel era stato nominato redattore capo, mentre Walter conservava il titolo di direttore. Il rito si svolse in una limpida giornata d'autunno. La chiesa s'empiva lentamente. Un fiotto di sole entrava dall'immensa porta spalancata, illuminando le prime file d'amici. Nel coro che appariva un poco in ombra, l'altare gremito di candele emanava un lucore giallognolo, umile e pallido di fronte alla gran luce su cui s'apriva la porta maggiore. La gente si salutava, si chiamava accenni, si riuniva a gruppetti. Gli uomini di lettere, meno rispettosi degli uomini di mondo, parlottavano fra loro, guardavano le donne. Norbert de Varenne, che stava cercando un amico, scorse Jacques Rival, quasi al centro delle file di sedie, e lo raggiunse. «Bene», disse, «l'avvenire è dei furbi». L'altro, che non era per nulla invidioso, rispose, «Buon per lui, ora si è sistemato per tutta la vita». Rival riprese. «Dica un po', mio caro, lei che va spesso a casa del padrone, è vero che la signora Walter e Duroy non si parlano più?» «Verissimo. Lei non voleva dargli la ragazzina, ma lui aveva in pugno il padre per via di certi cadaveri che erano stati scoperti, cadaveri, pare, sotterrati al Marocco. Ha costretto il vecchio minacciando rivelazioni da far rizzare i capelli. Walter, memore dell'esempio di La Roche-Mathieu, ha ceduto subito. Ma la madre, testarda come tutte le donne, ha giurato di non rivolger più la parola al genero. Sono maledettamente ridicoli quando si trovano di fronte. Lei pare una statua, la statua della vendetta. E lui è imbarazzatissimo, anche se quello riesce sempre a darsi un contegno, padrone com'è di se stesso». Tutt'a un tratto lo svizzero picchiò 3 volte l'alabarda sul pavimento di legno. Tutti gli astanti si voltarono tra un gran fruscio di gonne e un gran rumorio di sedie smosse. E la sposina apparve, a braccetto del padre, nella luce viva del portale. Aveva sempre l'aspetto d'una pupattola, d'una deliziosa pupattola bianca cinta di fiori d'arancio. Indugiò qualche istante sulla soglia. Poi, come ebbe compiuto il primo passo nella navata, l'organo lanciò un mugghio possente, ne annunziò l'ingresso con la sua voce metallica. Lei avanzava a capo chino, ma niente affatto timida, lievemente commossa, carina, graziosissima, una miniatura. Le donne sorridevano e mormoravano guardandola passare. Gli uomini bisbigliavano, incantevole, adorabile. Il signor Walter procedeva con esagerato sussiego, un poco pallido, gli occhiali in equilibrio sul naso. Li seguiva la signora Walter, dando il braccio al padre dell'altro suo genero, cioè al conte de la Tour Evelyn, di 72 anni. Costei, più che camminare, si strascicava, sul punto di svenire ad ogni passo avanti. S'aveva l'impressione che i piedi le si incollassero al pavimento, che le gambe le si rifiutassero di procedere, che il cuore le sbatacchiasse in petto come un uccellaccio svolazzante qua e là per cercar di fuggire. Poi comparve Georges Duroy con una vecchia gentildonna sconosciuta. Teneva alta la testa e anche lui aveva lo sguardo fisso, duro, sotto i sopraccigli leggermente aggrottati. Anche i baffi sul suo labbro sembravano inciprigniti. Parve a tutti un gran bel giovanotto. Aveva un portamento fiero, la vita snella, le gambe dritte. Portava con eleganza l'abito da cerimonia sul quale il nastrino rosso della Legion d'Onore pareva una goccia di sangue. Ora Georges era inginocchiato accanto alla moglie nel coro di fronte all'altare illuminato. Il nuovo vescovo di Tangeri, col suo pastorale in mano e la mitria in testa, uscì dalla sagrestia e apparve in pubblico per unirli nel nome dell'Eterno. Qualcuno voltò il capo avendo udito dei singhiozzi. La signora Walter piangeva, il volto fra le mani. Costei aveva dovuto cedere. Che altro avrebbe potuto fare? Ma dal giorno in cui aveva scacciato dalla propria camera la figlia che era tornata, rifiutando di baciarla, dal giorno in cui aveva detto con un fil di voce a Duroy, che riapparso le davanti la salutava cerimonioso, «Lei è l'essere più abietto che io abbia conosciuto. Non mi rivolga mai più la parola, tanto non le risponderò». Da allora soffriva un'intollerabile e implacabile pena. Odiava Suzanne d'un odio acuto, fatto di esasperata passione e di gelosia lancinante. Strana gelosia di madre e d'amante, inconfessabile, feroce, bruciante come una viva piaga. Ed ecco che un vescovo li sposava, sua figlia e il suo amore, in una chiesa di fronte a 2000 persone e davanti a lei. E lei non poteva dire nulla? Non poteva impedirlo? Non poteva gridare, ma è mio quell'uomo, è il mio amante, l'unione che benedite è infame. Molte donne intenerite mormorarono. Com'è commossa la madre, poverina? Il vescovo aveva terminato il suo discorso. Un sacerdote con la stola dorata saliva all'altare e l'organo riprese a celebrare la gloria dei novelli sposi. Bellamy, in ginocchio accanto a Suzanne, aveva chinato la fronte. In quel momento si sentiva quasi quasi un credente, un'anima pia, colmo di gratitudine per la divinità che l'aveva favorito tanto, che lo trattava con tanti riguardi. E senza saper di preciso a chi stesse rivolgendosi, la ringraziava del proprio successo. Terminata la funzione, si rialzò e, porgendo il braccio alla sposa, entrò in sagrestia. Allora cominciò l'interminabile sfilata degli intervenuti. George, fuori di sé dalla gioia, si sentiva un re di fronte a un intero popolo che accorreva ad acclamarlo. Stringeva mani, balbettava parole senza senso preciso, salutava, rispondeva alle congratulazioni dicendo «Lei è molto gentile». D'un tratto scorse la signora de Marelle e il ricordo di tutti i baci che lui le aveva dato, che costei gli aveva restituito. Il ricordo di tutte le loro carezze, di tutte le finezze di quella donna, del suono della sua voce, del sapore delle sue labbra, gli accese nel sangue una brama improvvisa di riaverla. Era carina, elegante, col suo aspetto monellesco e i suoi occhioni vivaci. George pensava, che amante deliziosa, tutto sommato. Lei si avvicinò un poco intimidita, un poco peritosa, e gli porse la mano. Lui la prese nella sua e ve la trattenne. Allora sentì il segreto richiamo delle sue dita di donna, la dolce pressione che perdona e riprende. E anche lui gliela strinse quella manina, come per dire «T'amo ancora, sono ancora tuo». I loro occhi si incontrarono sorridenti, brillanti, colmi d'amore. Lei mormorò con la sua vocetta piena di grazia «A presto, signor di Roi». Lui rispose allegro, «A presto, signora!» E Clotilde s'allontanò. Altre persone facevano ressa. La folla gli scorreva davanti come un fiume. Infine si diradò. Gli ultimi intervenuti se ne andarono. Georges riprese il braccio di Suzanne per riattraversare la chiesa. Era piena di gente, ognuno avendo ripreso il proprio posto per vederli passare insieme. Lui procedeva lentamente, con passo pacato, a capo alto, gli occhi fissi sull'ampio vano soleggiato della porta. Sentiva dei brividini corrergli sulla pelle, quei brividini freddi che danno certe felicità troppo grosse. Non vedeva nessuno, non pensava che a sé. Giunto sulla soglia, scorse la folla ammassata, una folla nera, rumoreggiante, venuta lì apposta per lui Georges du Roi. La popolazione di Parigi lo guardava a bocca aperta e lo invidiava. Poi, alzando gli occhi, scoprì laggiù, oltre Place de la Concorde, la Camera dei Deputati. Ed ebbe l'impressione d'essere sul punto di spiccare un salto dal portico della Madeleine a quello di Palais Bourbon. Scendeva lentamente i gradini dell'alta scalea fra due ali di spettatori. Ma lui non li vedeva. Il suo pensiero ora tornava indietro e davanti ai suoi occhi abbagliati dallo splendore del sole vagava la figurina della signora de Marelle, intenta ad aggiustarsi allo specchio i riccioletti leggeri sulle tempie, sempre scompigliati al sortir dal letto. Buongiorno, sono Massimo Raffaeli e in questo mese di giugno ho ascoltato con voi la lettura di Bellamy, la storia di un arrampicatore sociale, di un uomo brutale e ipocrita. Nel falò della sua vanità rimane intatta di Melamy una sola metafisica. Arrivare, farcela, soggiogare tutto e tutti, contemplare il mondo dall'alto del potere e del denaro. Come ogni classico che si rispetti, Maupassant, suo malgrado, torna attuale come fosse uno spettro. Per lui il mondo era la Terza Repubblica, la società dei borghesi affaristi, che descriveva con gli strumenti del naturalismo e la tecnica del ritratto dal vero. Tuttavia, il tanfo di morte che avvolgeva la sensualità di quei benemeriti cialtroni, i suoi personaggi, ci fa immaginare che lo scrittore si augurasse la loro fine, anzi, in qualche modo la presagisse. Detto ora per allora, probabilmente non è così. Il ritratto del mondo che Maupassant, da buon naturalista, immaginava momentaneo, oggi lo condanna alla immobilità di un classico. Egli ha colto i caratteri di un mondo che si è rinnovato, ma non è morto. Il suo è ancora il nostro mondo. Che cosa infatti mostra Maupassant in Georges Duroy, il cialtrone, l'infame arrivista, si direbbe in Italia l'impunito? Ecco, Georges, mezzo contadino e mezzo soldato, a lui non basta un borghese, vuole diventare un grande borghese. Ambisce cioè alla perfezione aristocratica. Georges nasce di Rouen, ma vuole finire con un nome degno di un nobile, non più di Rouen, ma du Rouen. Maupassant, sotto le vesti di una persona per bene, vede crescere un cannibale, un individuo completamente venduto all'ingranaggio della società che lo condanna ad essere vittima e nello stesso tempo carnefice. Georges è un eroe, ma un eroe del darwinismo sociale, la cui metafisica potrebbe tradursi in questa semplice parola d'ordine: mors tua, vita mea. Non c'è più società, ci sono atomi isolati e in guerra perpetua. Ecco, se apriamo i giornali di stamattina, noi ci rendiamo conto che tutto è mutato da Bellamy, ma nulla è cambiato sul serio. Nel nostro mondo, che nasconde la lotta per la sopravvivenza nell'etica del successo, il darwinismo sociale, cioè che l'uomo è il lupo dell'uomo, è qualcosa di così ovvio che sembra indifferente, normale. Un grande studioso di scienze sociali, Ignazio Ramonet, definisce questa vera e propria ideologia come il pensiero unico, un pensiero totalitario nella sua apparente normalità. Tuttavia, nel buio degli eroi di Maupassant brilla ancora una luce, forse un'ultima luce. Di lui scriveva niente meno Joseph Conrad. Egli è spietato ma gentile con le sue creature. A me sembra che le guardi le loro disgrazie, le loro delusioni, le loro miserie, con un occhio di profonda pietà, ma le guarda e fino in fondo. A chi tocca descrivere le gomorre di oggi non manca il coraggio di Maupassant. Semmai gli è più difficile riconoscerne la pietas. Quasi mai agli scrittori di oggi è permessa la pietà. Elsa Galbato ha letto Bellamy di Guy de Maupassant, postfazione di Massimo Raffaeli, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.